giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo le elezioni, la resa dei conti interna ai partiti, nel PD polemico botta e risposta tra il consigliere regionale Russo e l'ex presidente della regione Serracchiani. Ieri a Milano il Consiglio federale della Lega, all'uscita Fedriga rispondendo ai giornalisti dice sì a Salvini, ma il segretario nazionale non fa dichiarazioni, a breve i congressi provinciali, in gennaio i regionali. È tornata a Trieste la nave coreana che ha il compito di prelevare i motori commissionati da Daewoo a Wärtsilä. Ieri i sindacati hanno ricevuto dai coreani una richiesta di incontro. Il prefetto di Udine convoca una serie di associazioni del territorio per creare un tavolo per il monitoraggio dei prezzi al consumo dei beni di prima necessità. Si tratta del primo esperimento del genere in Italia. Danieli, utile netto di oltre 218 milioni di euro e un margine operativo lordo migliore del 44% rispetto all'anno precedente. Crescono gli ordini e i dipendenti, 427 in più da un anno all'altro. Un'app di Insiel sostituirà la tessera della benzina. Si stanno individuando 40 distributori per la sperimentazione. A breve saranno reclutati anche volontari tra i consumatori. Prima riunione a Udine in vista della dunata degli Alpini, in programma il prossimo maggio. Il primo appuntamento potrebbe essere a Gemona. Già tante le prenotazioni negli alberghi del capoluogo. L'ultimo film realizzato da Alfred Hitchcock prima dell'avvento del sonoro chiuderà l'8 ottobre le giornate del cinema muto di Pordenone. Ieri la presentazione del programma della prestigiosa rassegna. A Trieste la pronipote di Tolstoi e nipote di Luigi Albertini, fondatore del Corriere della Sera, questa sera presenta il suo libro, una genealogia al femminile a lungo ignorata che illumina di una luce particolare anche lo stesso scrittore. Chi pensa di conoscere bene il proprio cane potrebbe sbagliarsi. Un libro della triestina Cristina Serra spiega quanto si può ancora scoprire del proprio amico a quattro zampe. Le 7:20 minuti, buongiorno da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. Vediamo subito la situazione del meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6 del mattino. Trieste 13,5 gradi, mare quasi calmo con una temperatura di 21,5 gradi. Udine 10,5, Pordenone 10, Tolmezzo 7,5, Forni di Sopra e Tarvisio 4,5, Piancavallo 6, Sappada 1 grado, Monte Zoncolano e Montelussari 2,5 gradi, Lignano 14,5, Grado 15,5, con una temperatura del mare di 20 gradi. Le previsioni oggi al mattino: cielo variabile con bassa probabilità di piogge, dal pomeriggio in prevalenza nuvoloso con rovesci sparsi e qualche temporale, in serata saranno probabili piogge da moderate ad abbondanti con temporali più probabili sulle prealpi Giulie e sulla bassa pianura e costa. Sulla costa al mattino soffierà vento da sud-est debole o moderato, nel pomeriggio da sud o sud-ovest da moderato a sostenuto e sarà possibile l'acqua alta. Dopo il voto, la resa dei conti a casa dei partiti che hanno avuto risultati al di sotto delle aspettative. Il caso del Partito Democratico. Ieri il consigliere regionale del PD Russo ha attaccato la collega di partito Serracchiani chiedendole in sostanza di farsi da parte e lei ha risposto dicendo: capisco l'amarezza di Russo per la sua mancata ricandidatura al Parlamento. Sentiamo il servizio. Francesco Russo via Facebook spiega di condividere l'invito al PD a rimboccarsi le maniche arrivato da Serracchiani, ma aggiunge che forse questa volta è tempo che Deborah lo lasci fare a qualcun altro. Un intervento duro per aprire in regione la stagione congressuale voluta da Enrico Letta. I tempi però rischiano di essere molto lunghi e di sovrapporsi a quelli di una campagna elettorale, quella per le regionali, che il PD deve decidere come affrontare. Da un lato, spiega Russo, si tratta di ricostruire una proposta politica in grado di far capire ai cittadini che le risposte ai bisogni concreti questa destra in regione non le sta dando. Dall'altro c'è la necessità di costruire un partito meno romanocentrico, che riparta senza spocchia dai sindaci, dai consiglieri comunali, ma anche dai sindacati e dal mondo del lavoro. Le alleanze sono tutte da costruire per le regionali, anche per questo la speranza è di un percorso congressuale più breve e più concreto possibile, con Russo che si dice disposto a ricandidarsi per il consiglio regionale, ma oltre questo almeno per il momento non va. Né netta la risposta che arriva da Serracchiani. Da chi riveste ruoli di primo rango nel partito mi aspetto che contribuisca con proposte, non solo che giudichi gli altri come un osservatore esterno. Abbiamo perso le elezioni, osserva, e ora saremo l'unica opposizione progressista e riformista. Dovremo dare corpo e anima al compito che ci hanno dato gli elettori e lavorare per far rinascere il partito. Dopo penseremo alle alleanze. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. E ieri si è tenuto anche il Consiglio federale della Lega nel quartier generale del partito a Milano. È stato convocato dal segretario Salvini come primo momento di analisi sull'esito delle elezioni politiche, dalle quali la Lega è uscita fortemente indebolita e ampiamente sorpassata da Fratelli d'Italia. Alla riunione anche il presidente della regione Fedriga e i colleghi Zaia e Fontana, oltre al ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Al termine Salvini ha lasciato il Consiglio senza rilasciare dichiarazioni. Il presidente della regione Fedriga, lasciando la sede del partito dopo oltre 3 ore e mezza di vertice, alla domanda Salvini sì o Salvini no, ha risposto Salvini sì. Tra i temi affrontati anche i tempi dei prossimi congressi provinciali e regionali, i primi si dovrebbero tenere in ottobre, i secondi in gennaio. La Lega inoltre chiederà di inserire il tema dell'autonomia nel primo Consiglio dei Ministri. Intanto il presidente Fedriga ha convocato per oggi alle 11.30 la conferenza delle regioni e delle province autonome, mentre nel pomeriggio si terrà la conferenza Stato-Regioni. Si parlerà di contributi a favore dei titolari di attività economiche e produttive, del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie virali, di ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione ucraina, del piano straordinario nazionale per la sicurezza ambientale e di semplificazione del quadro normativo degli interventi di messa in sicurezza dei fiumi e del territorio. E passiamo al caso Wärtsilä. La nave che deve consegnare a Daewoo i motori costruiti a Bagnoli è attraccata nel canale navigabile. È tornata perché lo sciopero dei portuali si è interrotto alla notizia dello stop imposto dal tribunale ai licenziamenti annunciati. Sono loro che dovrebbero caricare, ma i sindacati chiedono che nulla si muova fino all'incontro chiesto dai coreani. I lavori preparatori per l'imbarco dei 12 motori Wärtsilä acquistati da Daewoo sono cominciati nel primo pomeriggio, poco dopo l'attracco alla banchina Wärtsilä nel canale navigabile, dove è presente una gru dell'azienda scandinava. Questa volta, infatti, la nave non ha chiesto l'autoproduzione e deve avvalersi dei portuali. La UHL Fusion è tornata indietro dal basso Mediterraneo dopo la revoca dello sciopero dei lavoratori del porto a seguito dell'annullamento della procedura avviata dai finlandesi decretata dal tribunale venerdì scorso. La reazione dei metalmeccanici dei CGL Cisle Wheel non si è fatta attendere. Hanno chiesto a Daewoo di sospendere ogni forzatura sul caricamento dei motori almeno prima che si svolga l'incontro con loro proposto proprio dai coreani in data e luogo da definire. La comunicazione alla stampa è stata in forma scritta, mentre ogni dichiarazione formale e informale viene al momento rimandata in un riservo che dai sindacati finora non si era mai visto. Daewoo ha già espresso solidarietà ai lavoratori e si è detta in una lettera indirizzata ai sindacati stessi disponibile a rivedere la collaborazione con Wärtsilä alla luce della decisione di chiudere l'impianto produttivo di Trieste, come già annunciato da Fincantieri. Nella giornata di lunedì, un dirigente finlandese in una comunicazione all'RSU di fabbrica ha detto che è arrivata l'ora di parlare con i lavoratori, ma i sindacati si aspettano non solo parole. Bisogna capire ora se, come e quando Wärtsilä intenda presentare la nuova procedura, sulla base peraltro di una ben più penalizzante legislazione sulle delocalizzazioni. Al momento tutto è sospeso, i lavoratori sono in un limbo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine sta per nascere il primo tavolo permanente per il monitoraggio dei prezzi al consumo. La proposta è partita da alcune associazioni come il Movimento di Difesa del Cittadino, che ha notato aumenti oltre le attese dovute al rincaro dell'energia anche in ipermercati e discount. Oggi il prefetto Marchesiello ha convocato i rappresentanti di questa e altre associazioni, da Federconsumatori a Confartigianato, da Confcommercio a Coldiretti. Ma sentiamo il prefetto Marchesiello. Noi quest'estate abbiamo ricevuto una delegazione di un movimento di difesa di consumatori nell'ambito dell'organizzazione di un evento chiamato Pentole Vuote, e ovviamente siamo stati in qualche maniera sollecitati a costituire un momento di raccordo. proprio perché già allora, insomma, quest'estate i prezzi al consumo erano rincarati, adesso a maggior ragione di più, e quindi abbiamo ritenuto necessario, comunque opportuno, fare un po' massa critica su questa problematica. In questo abbiamo coinvolto anche la Caritas e la Croce Rossa, perché comunque è un supporto per persone che sono in effettiva difficoltà anche alimentare, era opportuno. E quindi è un momento, ecco, di confronto per non creare, dico io, corticircuito all'interno di un sistema che in questo momento deve comunque reagire. L'obiettivo è quello di tenere sotto controllo i prezzi, ma come si farà concretamente? Dobbiamo ragionare insieme e trovare delle soluzioni che almeno a livello locale funzionino e siano un'opportunità ovviamente per evitare maggiori difficoltà e sofferenze tra la comunità cittadina. Ma le associazioni dovranno impegnarsi a monitorare i prezzi per poi riferire alla prefettura? È un tavolo assolutamente nuovo, quindi lo costituiamo, abbiamo dei pregressi, ma erano altre situazioni, quindi è una situazione un po' nuova su cui veramente io mi ricordo quando venne introdotto l'euro, per esempio, c'era un tavolo che aveva questo tipo di finalità. Questa ovviamente è una situazione completamente nuova, su cui poi ci sono anche molte variabili che purtroppo possono incidere anche velocemente su questa che comunque è un'emergenza, come tante altre. Qualora lei ricevesse da queste associazioni delle segnalazioni su dei prezzi cresciuti eccessivamente, che potere può avere il prefetto a questo punto? Beh, vabbè, adesso ci saranno anche presenti, per dire, forze di polizia, ma in particolare la Guardia di Finanza, quindi comunque vediamo e valuteremo con quali strumenti di vigilanza possiamo operare. Nonostante i rincari delle materie prime e lo stop ad alcuni progetti in Russia e in Ucraina, questo è stato un anno straordinario per la Danieli e Officine Meccaniche di Buttrio. L'esercizio 2021-2022 chiude con un utile netto di oltre 218 milioni di euro e un margine operativo lordo di 359 milioni di euro, migliore del 44% rispetto all'anno precedente. Sono cresciute le spese per ricerca e sviluppo, ampiamente ripagate però con un maggiore volume d'affari, 1.500 ordini in più in portafoglio e 427 dipendenti in più. Ora il totale supera i 9.000 lavoratori. Tra un mese esatto ci sarà l'assemblea degli azionisti. Una nuova app sostituirà in regione la vecchia tessera per lo sconto della benzina. La sperimentazione sta per partire. Si stanno già reclutando 40 candidati tra i distributori di benzina che si rendano disponibili a sperimentare la nuova app InSiel, che pian piano sostituirà definitivamente la tessera regionale cartacea per lo sconto carburante. Oltre ai benzinai servono naturalmente anche i viaggiatori, chiusa l'auto. Già fa il pieno con la tessera e vuole far parte della sperimentazione. A breve la regione farà sapere come potersi candidare. La sperimentazione avrà la durata di un anno, da gennaio 2024 esisterà solo l'app. È quanto ha dichiarato l'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro presentando ai portatori di interesse il nuovo disegno di legge carburanti approvato dalla Giunta e che ora si appresta ad andare nelle commissioni e poi passare in consiglio regionale. La norma prevede una maggiore flessibilità nelle variazioni sul prezzo dei carburanti, prezzo che verrà modulato con una delibera dell'esecutivo regionale. Tra le novità anche l'introduzione di un extra sconto per i comuni che si trovano a 10 km di distanza dal confine di Stato. Questa dunque è la misura di fronte al caro carburante. Per il caro energia invece la regione ha deliberato 40 milioni di euro di aiuti a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, a parziale ristoro delle spese sostenute nel 2022 a fronte degli aumenti dei costi energetici. Altri 2 milioni e mezzo di euro saranno i contributi destinati all'internazionalizzazione delle imprese. Il bando si aprirà il 12 di ottobre, per chiudersi il 28. Le domande vanno presentate attraverso il sistema a distanza online. Ciascuna impresa, in base alla dimensione, prenderà da un minimo di 1.000 a un massimo di 2.000 euro. Inoltre, entro la fine dell'anno, la Regione manderà un bando dotato di importanti risorse garantite dalla programmazione comunitaria per assegnare alle imprese fondi per l'installazione di impianti fotovoltaici. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Udine il giovane rimasto ferito ieri nello scoppio di un residuato bellico all'interno della centrale elettrica di Fogliano Re di Puglia. Rischia l'amputazione delle dita. Una bomba a mano ritrovata sul Carso Goriziano, teatro degli scontri della Prima Guerra Mondiale, è esplosa all'interno di un deposito di automezzi e materiali situato nel comune di Fogliano Re di Puglia, a ridosso della strada che conduce a San Pier di Sonzo. La struttura fa parte degli impianti della centrale di smistamento di Terna, società di distribuzione della rete elettrica nazionale, ma il deposito non è vicino ad apparecchiature sensibili e non vi sono stati danni. Dipendente dell'azienda di 34 anni, FC le iniziali, stava armeggiando sull'ordigno che gli è esploso tra le mani, provocandogli gravi lesioni a un arto e ferite anche al petto. Eli trasportato in codice rosso rimane in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e rischia di perdere alcune dita. I carabinieri giunti da Gradisca, Monfalcone e Gorizia assieme ai vigili del fuoco hanno scoperto che l'uomo aveva creato in un vano aziendale un vero e proprio deposito di residuati bellici. Inoltre era molto noto negli ambienti del collezionismo di cimeli, apprezzato per la sua passione nella ricerca storica e attivo su Facebook nell'interscambio di informazioni sui ritrovamenti di materiali attinenti alle due guerre mondiali. Nelle sue pubblicazioni online aveva più volte raccomandato di non maneggiare o intervenire su reperti ritrovati, ma di segnalarli alle forze dell'ordine. Fogliano Re di Puglia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Prima riunione ieri a Udine tra i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini, il prefetto e i vertici provinciali delle forze di polizia e dei vigili del fuoco in vista della dunata nazionale che si terrà a Udine nella primavera del 2023. Il primo atto della 94esima adunata nazionale degli alpini, in programma ad Udine dall'11 al 14 maggio 2023, potrebbe tenersi a Gemona, con un ricordo dei commilitoni morti sotto le macerie del terremoto del 76. Questa è l'idea dell'ANA, condivisa con prefetto, vertice delle forze di polizia e vigili del fuoco, nel corso della prima riunione di contatto in prefettura, una cerimonia all'ex caserma Goi Pantanali che si sarebbe dovuta tenere il 6 maggio 2021, 45 anni dopo il sisma, ma la pandemia ha imposto un doppio rinvio della dunata udinese al 2023. L'incontro in prefettura anticipa l'avvio di diversi tavoli tecnici per l'organizzazione di un evento che potrebbe richiamare in città più di 500.000 persone, come già avvenuto nel 96, in occasione del ventennale del terremoto, e in linea con i numeri dell'edizione dell'anno scorso a Rimini. Già molto alta la richiesta di ospitalità per quei giorni, indica Federalberghi, resta ancora da censire il numero effettivo di strutture a disposizione. Tanti alpini hanno fatto il militare dalle nostre parti, porteranno con sé le famiglie e i nipoti per visitare i luoghi in cui hanno servito durante la naia, indica il presidente sezionale Dante Soravito. Dalla prossima riunione operativa, a fine ottobre, si comincerà ad andare nel dettaglio. Logistica, sicurezza, sicurezza sanitaria, ubicazione delle tribune, cibo e bevande, ambulanti. Man mano che si avvicinerà l'evento, si farà sempre più serrato il cronoprogramma degli incontri. Il Comune ha messo a disposizione dell'ANA i locali dell'ex sede della prefettura, mentre per le conferenze di più ampia portata saranno a disposizione gli spazi dell'attuale Palazzo del Governo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Di tanto in tanto fanno notizia le aziende spesso d'oltreoceano dove i dipendenti lavorano con il sorriso, grazie ad esempio a orari totalmente flessibili o a postazioni di lavoro di design molto funzionali. La nostra Costituzione, in tempi non sospetti, già promuoveva qualcosa del genere all'articolo 46. La Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende nei modi stabiliti dalle leggi. Per disegnare il lavoro del futuro, 9 atenei si incontrano oggi online alle 10. L'Università di Udine è capofila di questo progetto nazionale. A questo primo incontro parteciperà anche Tiziano Treu, presidente del CNEL ed ex ministro del lavoro. Questa ricerca durerà 3 anni e al termine potrebbe fornire proprio delle linee guida per un lavoro moderno in azienda. La nostra intervista alla coordinatrice del progetto, la professoressa Marina Brollo, giuslavorista all'Ateneo Friulano. Il legislatore ordinario non è mai intervenuto con leggi generali per disciplinare il tema della partecipazione. Quindi abbiamo delle esperienze, delle pratiche, diciamo sui diritti di informazione, sull'azionariato dei lavoratori, ma delle diciamo interventi sporadici, diversi, che non danno un'attuazione organica all'intervento previsto dalla nostra Costituzione. E quindi è come una specie di puzzle in cui mancano ancora tanti pezzi e non si vede il disegno di fondo. E quindi voi provate con questa ricerca che lei coordina a livello nazionale di mettere insieme questi pezzi mancanti? Esattamente, di cercare di verificare se nelle prassi attuali ci sono delle forme, delle modalità di partecipazione che potrebbero diventare un modello di riferimento interessante. Arrivano notizie dalla Silicon Valley, mi viene in mente, di aziende in cui i lavoratori hanno un rapporto tra lavoro e famiglia molto ben coordinato, aziende dove il lavoratore viene ascoltato settimanalmente dai propri superiori se ha dei suggerimenti da fare, aziende dove c'è l'area relax. Tutto questo è un po' un esempio di quello che state cercando di fare voi? Esattamente, è proprio azzeccato la descrizione del problema, nel senso che la partecipazione può diventare uno strumento per dare delle risposte su misura delle esigenze dei lavoratori e delle imprese. Ecco perché noi abbiamo usato il termine benessere, che è un benessere della persona, ma è anche un benessere organizzativo, quindi se stanno bene le persone, stanno bene anche le organizzazioni. Ieri la presentazione delle giornate del cinema muto di Pordenone si terranno al Teatro Verdi dal 1 all'8 ottobre e saranno concluse dall'ultimo film muto di Alfred Hitchcock. Il festival torna al Teatro Verdi di Pordenone senza restrizioni e attende di rivedere il suo pubblico al gran completo, per il 75% ospiti stranieri da tutto il mondo. È uno dei due primati che le giornate del cinema muto possono vantare in Italia, oltre a quello di rassegna che dura tutto l'anno, ha ricordato uno dei suoi fondatori storici, Piero Colussi, presentando l'edizione 41. 8 giorni di proiezioni dal 1 all'8 ottobre, eventi speciali, 2 retrospettive, un'anteprima a Sacile e tanta musica dal vivo a fare da colonna sonora alle pellicole. Inaugura un film culto della storia del cinema, Lo sconosciuto di Todd Browning del 27, nella sua nuova copia ritrovata, musicato dall'Orchestra San Marco di Pordenone, diretta da José Ruiz. In chiusura invece l'ultimo muto di Hitchcock, oggi riscoperto, L'isola del peccato del 29, accompagnato dalla musica di Steven Horn, sempre con l'Orchestra San Marco. Il direttore artistico della rassegna, Jay Weisberg. Dopo 3 anni c'è la possibilità di venire finalmente a Pordenone per godere l'atmosfera e il cinema muto finalmente qui a Pordenone. Più pubblico sicuramente, più incontri. È la manifestazione internazionale per eccellenza della città, un patrimonio da preservare e sostenere, ha sottolineato il sindaco Alessandro Ciriani, richiamando la necessità di fare qualcosa di più a supporto del festival, che guarda intanto al 2025 in vista di Gorizia e Nuova Gorizia, capitale europea della cultura. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Un evento letterario e musicale a Trieste che diventa l'occasione per incontrare la pronipote di Tolstoi e nipote di Luigi Albertini, fondatore e direttore del Corriere della Sera, Marta Albertini. Alle 20:30 al magazzino 26 di Porto Vecchio presenta il suo libro intitolato Una genealogia ritrovata. La moglie, la figlia e la nipote di Tolstoi si raccontano, edito l'anno scorso da Vita Attiva Nuova. Molto più dell'affresco di una storia familiare, non solo fa rivivere una genealogia femminile a lungo ignorata attraverso le parole delle stesse protagoniste, ma dà voce a molte altre figure della famiglia e illumina di una luce particolare e inedita lo stesso Tolstoi. Colloquiano con l'autrice Laura Ricci e Fabiana Martini. Chi ha un cane è probabilmente sicuro di conoscerlo molto bene, ma di fatto c'è ancora tanto che possiamo scoprire su questi animali così cari all'uomo. Per arrivare a creare una vera armonia a 6 zampe, la triestina Cristina Serra ha scritto Mind Dogness, meditare a 6 zampe, edito da Ultra. Questa sera la presentazione è alle 18 alla libreria Lovat di Trieste. Sentiamola. Il cane è in grado di ragionare sul fatto che un uomo possa avere un insieme di dati o una visione diversa dalla sua. Per esempio, se in una stanza ci sono un cane, un uomo e 2 palline, ma una pallina è nascosta alla vista dell'uomo, il cane va a recuperare sempre quella che l'uomo riesce a vedere, quindi questo ci dice che in qualche modo lui immagina che l'uomo, non vedendo la pallina nascosta, ne ignori l'esistenza. Oppure un altro esempio molto simpatico è quello del cane che ruba il cibo solo se il cibo è al buio, quindi di nuovo in una stanza un uomo, un cane e del cibo illuminato. Se si spegne la lampada che illumina il cibo, il cane va a rubarlo. Se il cibo invece è in bella vista sotto la luce, si astiene dal portarlo via. Quindi anche qui ci dice che probabilmente il cane fa un ragionamento. L'uomo vede il cibo come lo vedo io, non posso rubarlo. Viceversa, al buio mi azzardo a portarlo via. Fa male al cane questa umanizzazione sempre più spinta? Sì, direi di sì, perché non viene rispettato nella sua caninità. Faccio un esempio molto banale: i cappottini con i fiocchetti, i guinzagli con i brillantini sono tutte cose nostre, non sono cose che c'entrano col mondo del cane. E oltretutto, sì, l'umanizzazione porta a impedire al cane di esprimere i propri desideri, i propri desiderata, no? Il cane ha voglia di camminare insieme a noi, ha voglia di annusare un prato, ha voglia di stare con noi vicini, non ha voglia di stare in un giardino da solo, per esempio. Ecco, questo è un altro aspetto molto importante. Noi siamo convinti che cosa potrebbe volere di più un cane che ha 1000 metri di parco dove correre? Che cosa vorrebbe di più la nostra compagnia? Le 7.44, siamo alla rassegna stampa, incominciamo dal piccolo. Il titolo principale dell'edizione di Trieste riguarda la politica e uno degli osservati speciali di queste ore, la Lega. Ministero di peso per Salvini, questo è il titolo, sì ai congressi, che poi è quello che in estrema sintesi è uscito ieri dal Consiglio federale, ieri sera. Nel sottotitolo, la Lega piena di fiducia nel segretario, ma le assise regionali si terranno a gennaio. In prima anche la resa dei conti in casa PD, l'analisi della crescita in regione di Fratelli d'Italia e il ritorno di Roberto Menia, eletto in Liguria, che nel richiamo in prima pagina dice: quanti messaggi ipocriti da chi prima mi evitava, è una rivincita. Richiamo anche a un'altra intervista, quella al PD Cuperlo, il triestino Cuperlo, che dice: paghiamo gli errori di 10 anni. In prima anche il caso Varzila e l'incontro tra i sindacati e Daewoo, la nuova app per il carburante e i 130 anni dell'ippodromo. La fotonotizia invece è per la Barcolana, il titolo arriva Deep Blue. Infine il richiamo all'inserto che il quotidiano dedica alla manifestazione Gusti di Frontiera che si apre domani. Dal piccolo di Gorizia a cambiare e soprattutto la fotonotizia dedicata all'incidente di ieri, ne abbiamo parlato prima, esplode un ordigno, rischia la mano, questo il titolo. Il Messaggero Veneto apre con l'analisi del dopo voto. Il PD è alla resa dei conti, Lega, congressi a gennaio, il confronto nel carroccio rinviato al 2023. Il Consiglio federale chiede un ministero per Salvini. In taglio basso si parla del programma di Rai 1, tale quale show. La miss friulana Samira Lui, nata a San Daniele da padre senegalese e mamma friulana, da venerdì sarà al fianco di Carlo Conti. La notizia principale di cronaca cittadina a Udine per i passaggi a livello. Saranno eliminati entro la fine del 2025. Rete Ferroviaria Italiana e Regione FVG hanno confermato la tabella di marcia. Il completamento del nodo ferroviario costerà 203 milioni di euro. Il senatore Mario Pittone ha ricordato che ne mancano però 90 per finire i lavori del secondo lotto. Nelle pagine di Pordenone del Messaggero la notizia principale di cronaca è per la politica. Tempi lunghi sul nuovo vice sindaco Emanuele Loperfido, eletto alla Camera, vuole replicare il modello Trieste. Il riferimento è a Sandra Savino. Incarichi a Roma e in giunta comunale giudicati compatibili. Ciriani frena quindi sul cambio e punta sul governo. La Savio, colosso del tessile di Pordenone, riorganizza la produzione. Potrebbero esserci 40 esuberi. Anche il Gazzettino di Udine apre con la Lega. Lega, riportiamo a casa i voti. Il coordinatore Dreosto, le regionali sono un'altra partita, già mobilitati sul territorio i 60 amministratori. Iniziate le grandi manovre anche per le elezioni comunali. Il Carroccio ora deve difendere Udine, Sacile e San Daniele. La fotonotizia invece è per il PD. PD adesso la resa dei conti. Intanto dalla base online, si legge nella didascalia della fotonotizia, arrivano le richieste di iscritti e simpatizzanti che chiedono per le prossime elezioni regionali un patto elettorale con 5 Stelle e Azione, ma i due movimenti, scrive il Gazzettino, hanno già sbattuto la porta. E poi Fratelli d'Italia, che non vince solo in due comuni, Terzo di Aquileia e Marano Lagunare. Ancora in prima, Gruppo Danieli, sono in crescita utili e volumi per la sanità, forze fresche nella centrale Sores, rientra la protesta, maltempo, diversi danni a Udine e Forgaria, disagi sui treni. Sotto anche Del Neri promuove l'Udinese di Sottil e per il basket di A2, Old Wild West e Gesteco alla scoperta di un campionato con 3 favorite. 7.49, alcuni appuntamenti culturali di oggi. A Trieste 5 incontri per valorizzare il patrimonio bibliografico e fotografico di Palazzo Gopcevic sul Canal Grande. Si inizia oggi pomeriggio alle 17.30 con Stefano Corso, autore del romanzo Chi è Kufter, edito da Castelvecchi. Ci sarà anche Rina Ciampolillo, che ha collaborato alle ricerche storiche. Il libro racconta del misterioso fotografo triestino, autore di quasi 7.000 negativi scattati nei primi 30 anni del Novecento. A Civitella del Friuli il primo appuntamento della rassegna Sguardi per visitare la collezione De Martis a Palazzo De Nordis alle 17. Il professore emerito dell'Università di Trieste, Walter Gerbino, parlerà di Vassarely, pittore e grafico ungherese naturalizzato francese, fondatore negli anni 60 dell'arte ottica. Don Mario Diana della Conferenza Episcopale Italiana presenterà a Pordenone l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, appuntamento oggi alle 18 nell'ex tipografia Savio in via Torricella 2. Nel mese dell'Alzheimer torna a girare per la città di Trieste il bus viola, 2 le corse speciali da Piazza Oberdan alle 18 e alle 19. I passeggeri saranno accompagnati nel tour dalle descrizioni dei luoghi a cura di Francesca Pitacco, presidente delle guide turistiche del Friuli Venezia Giulia, intervallate da dialoghi di una madre e una figlia, passeggere immaginarie di questo bus, interpretate dalle voci delle attrici Ariella Reggio e Marzia Postogna. Sempre presente poi, inoltre una ventina tra bar, caffè storici e locali di Trieste, lo Spritz Viola per aderire alla campagna di solidarietà a favore di chi si prende cura dei malati di Alzheimer. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 il quotidiano appuntamento con Vueo Fevelindi, che parlerà dell'Università della Terza Età di Udine. Alle 11.20 andrà in onda Con le mani, con i piedi, con il cuore, che presenterà il progetto 30 anni senza Moretti, caratterizzato da un forte simbolo identitario con un indissolubile rapporto tra la storica birra, i suoi luoghi e la comunità. Si conclude qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. In regia, per la parte tecnica, Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.